nuovo programma. Ma se tu casi in ritardato, come nuovo programma? Si arriti in anno se... Un vecchio programma! Canta una canzone! E canta, ca! Quando i bambini fanno... Oh, adesso come canta bene, zio, bene! Squitte, squitte! Presenta, presenta, presenta! Zio Pino, Pier Francesco e squitte, squitte! Ma che cazzo conta? Ti singandati, bello! Of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do is on the sea. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Sono sketch a base di stupidaggini varie che possono avere effetti indesiderati e anche gravi. Tenerlo lontano dalle orecchie dei bambini, non usare in gravidanza e in caso di... Barbra Streisand. Barbra Streisand.